questo mondo quasi quanto te. Ho una doppia vita senza via d'uscita. Corri signorita, corri più che puoi. Luna, luna, maledetta questa luna. Luna, luna, ma che luna è? Luna, luna, maledetta questa luna. Luna, luna, ma che luna è? Via che deve appare dalla vita in su. Delle notti amare a lei non le importa più. Dolce Mona Lisa, sei la mia rovina. Non ti mangio mica, io ti salverò. Io ti salverò. Uscita, corri signorita, corri più che puoi.